Radio 24 Reportage. Evasori, i furbi che ci fanno pagare anche il loro conto, di Valentina Furlanetto. Ragioniere, quante volte ti devo dire che le tasse sono come la droga? Se le paghi una volta anche solo per provare, finisce che ti prende la voglia. Catasso non se ne pagano, caccio caccio. Italiani, popolo di santi, eroi, navigatori ed evidentemente anche di evasori fiscali. Secondo la Corte dei Conti, l'evasione fiscale ormai ha raggiunto nel nostro paese il 18% del prodotto interno lordo, 350 miliardi di euro all'anno evasi, che si traduce in circa 150 l'anno di mancato introito per lo Stato, facendo due conti, tre finanziarie. Io di tasse pago poco niente. È anche colpa degli evasori se su ciascuno di noi, neonati compresi, pesano 31.000 euro l'anno di debito pubblico. Facciamo degli esempi. Volete sapere quanto guadagnano in media i titolari di bar e ristoranti? 8.300 euro lordi l'anno, meno di un cameriere. Per non parlare dei gioiellieri, che stando al 730 fanno una vita ben grama. 13.400 euro l'anno, lordi, come la busta paga di un lavoratore precario. E che dire dei titolari di ditte di costruzioni? Uno su due dichiara un reddito inferiore a 50.000 euro lordi l'anno. In totale l'evasione fiscale nel settore nell'ultimo anno e mezzo ha raggiunto 2,2 miliardi di euro. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Abbiamo il 32% dei soggetti che presenta una perdita o un reddito pari a zero, quindi soprattutto se vediamo che ci sono società o imprese che sono costantemente in perdita, questo è un elemento importante che fa scattare, diciamo, la selezione del soggetto per successivi controlli. Tanto per cantare perché mi sento un friccito nel cuore. Si può dire che l'evasione accompagna l'italiano medio dalla culla alla fine dei suoi giorni, se si considera che un matrimonio su due viene pagato in nero e che il 12% dei titolari di pompe funebri dichiara redditi zero. In un caso, a Benevento, il numero dei funerali è risultato più basso del numero dei morti. Così un'impresa in città faceva del caro estinto un business comprando in nero buona parte delle casse da morto. D'altra parte Berlusconi nel maggio 2011 raccontava queste barzellette ed era molto applaudito. A un certo punto in un'azienda, la mattina alle 7:30, alle 8, si udì un bussare alla porta, con forza, con decisione, quasi con violenza. E allora il capo azienda domandò, chi è? E da fuori dissero, è una rapina. Meno male, credevo che fosse la guardia di finanza. Perché mi sento un friccito nel cuore. Vero è che l'Italia ha anche una pressione fiscale molto forte, che supera il 43%, fra le più alte fra tutti i paesi industrializzati. Quel che è certo è che adesso il fisco ha più strumenti per combattere i furbetti del quartierino. Ad esempio può effettuare controlli preventivi sui conti correnti e può contare su uomini come Luigi Magistro, direttore dell'accertamento Agenzia delle Entrate, già alla Procura di Milano, un grande cercatore di funghi. Un mio hobby, certo è un buon allenamento, perché alla fine cercare di dare una soluzione al problema dell'evasione fiscale nel nostro paese richiede veramente un impegno notevolissimo, e noi ci stiamo impegnando da diversi anni in questa strategia con discreti risultati. I miliardi recuperati dall'Agenzia delle Entrate nel 2006 non arrivavano a 5, nel 2010 sono saliti a 10 e quest'anno si dovrebbe arrivare a 12 miliardi. Anche qui dipende dal punto di vista. C'è chi dice che è aumentata l'evasione, c'è chi sostiene invece che sono aumentati i controlli. Quando parlo di recuperati, mi fa piacere sottolineare che vuol dire incassati, non vuol dire accertati, quindi non è teoria ma è qualcosa di concreto. Non toglie che rispetto ad altri paesi gli italiani hanno un difficile rapporto con il fisco, e questo ha diverse conseguenze. La prima è che, visto che lo Stato incassa meno, taglia i servizi ai cittadini. Per ogni 100.000 euro evasi si volatilizzano una manciata di posti all'asilo nido, si spegne l'illuminazione pubblica di una strada, si chiude un presidio ospedaliero, si fa un'ora di coda in più al centro unico di prenotazione. Chi evade vi ruba un po' di quello che vi è dovuto. Non solo, l'evasore accede anche a servizi che non gli spetterebbero. Ad esempio, si è scoperto a Padova che 280.000 studenti universitari godevano di tasse universitarie ridotte o addirittura di esenzioni, grazie alle dichiarazioni dei redditi ritoccate al ribasso dai genitori. Un altro effetto dell'evasione è quello di falsare la concorrenza. Un esempio, l'azienda X, settore grandi lavori, lombarda, 300 dipendenti, oltre 40 milioni di euro di fatturato, ci ha raccontato di gare d'appalto perse con concorrenti che, non pagando l'IVA o i contributi ai lavoratori, possono garantire sconti anche del 30%. Per l'azienda X è come correre con i macigni in tasca. Oltre al danno, la beffa. Il committente non è un gruppo privato, ma un grande gruppo che fa capo al Ministero dell'Economia. Insomma, il Ministero da una parte, con l'Agenzia delle Entrate, persegue gli evasori, dall'altra li premia facendogli vincere le gare. Tanto per cantare, perché mi sento un friccito nel cuore. Tanto per sognare, perché nel petto mi ce n'ha. Ci sono delle soluzioni? Ci sono. Molto banalmente basterebbe usare meno contante perché tutti i pagamenti fossero tracciati. Per ora l'Italia è lontana. Oltre il 52% non usa carte di credito, anche per le commissioni che devono pagare. Fa ben sperare poi l'improvvisa e recente impennata di chiamate al 117, il numero di pubblica utilità della Guardia di Finanza. Esiste da 15 anni, ma gli italiani sembrano averlo scoperto solo di recente. Ormai le segnalazioni sono circa 100 al giorno, con un incremento rispetto all'anno passato di oltre il 20%. Ma una segnalazione può essere anonima? Il colonnello Michele Dell'Agli, del Comando Generale delle Fiamme Gialle. Viene presa in considerazione, nel senso che viene comunque tenuta, viene archiviata e viene custodita nel patrimonio informativo del corpo. Però una segnalazione anonima non può entrare nel procedimento formale di constatazione e accertamento delle violazioni fiscali. Comunque anche la segnalazione anonima viene custodita dalla Guardia di Finanza. A stanare gli evasori possono quindi contribuire i privati cittadini, ma molto possono fare anche gli enti locali. Ad esempio, grazie a una norma introdotta di recente, i comuni che collaborano con l'Agenzia delle Entrate possono trattenere fino al 100% di quanto scovato in materia di imponibile sottratto all'erario. Carmelo Piancaldini dell'Agenzia delle Entrate. Alcuni comuni che sono partiti in maniera anche forte, soprattutto per esempio nell'area dell'Emilia Romagna, della Lombardia e anche di altre regioni, ad oggi hanno complessivamente trasmesso oltre 20.000 segnalazioni. Abbiamo un recupero attraverso accertamenti di oltre 30 milioni di euro di maggiori imposte, se ci abbiniamo a queste anche le sanzioni arriviamo a 60 milioni di euro. Non male, basterà a convincere sindaci e cittadini. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.